Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Fallisce l'evacuazione di Aleppo, la città di nuovo sotto i bombardamenti, migliaia di civili intrappolati. Secondo Mosca la situazione si risolverà in 2 o 3 giorni. Nuovo sprint in borsa di Mediaset, Vivendi ormai al 12,3% del capitale, punterebbe al 20% entro Natale. Berlusconi annulla gli impegni e prepara le prossime mosse. Il presidente Campano De Luca indagato per istigazione al voto di scambio, al centro dell'inchiesta l'audio dell'incontro con i sindaci campani per il sì al referendum. Operazione di polizia nel parco dei Nebrodi, 50 indagati sono allevatori, macellai, veterinari, mettevano in commercio carne adulterata. L'inquinamento continua a superare i limiti di legge in tutte le città del centro-nord, primi blocchi per i diesel Euro 3 a Torino da domani, critica la situazione anche in Lombardia e Veneto. E trapianto a Torino, il primo al mondo di un rene al posto della milza, una bambina di 6 anni che non ha mai potuto bere potrà iniziare a farlo. Pendolari pagati per contare i passeggeri ad ogni fermata del treno, la strana idea della regione Liguria per monitorare le stazioni. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura dunque andiamo ad Aleppo. La Mezzaluna Rossa continua a lavorare all'ampliamento dei campi di accoglienza nel nord della Siria, dove arriveranno gli abitanti dei quartieri est di Aleppo quando finalmente saranno liberi di uscire. Perché oggi è fallita l'ennesima tregua, fatta per far uscire i ribelli e portare i soccorsi. Ma Assad deve sentirsi sufficientemente sicuro delle sue posizioni. Lo dimostra la ritrovata voglia di parlare con la stampa, sebbene sia quella amica di RT, la televisione russa in lingua inglese, da dove accusa che per la Siria si usano due pesi e due misure. Doesn't matter what they ask. Chiedendo a noi di fermarci, difendono i terroristi, dice, ripetendo un'accusa già più volte lanciata da Mosca al fronte americano ed europeo. This is in brief. Così l'esercito siriano non ha avuto esitazioni stamattina a bombardare di nuovo Aleppo durante la tregua che era in corso, appunto. C'era stato un tentativo di riprendere la lotta, è stato detto, e gli autobus che erano pronti per l'evacuazione di ribelli e civili hanno fatto dietro fronte. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. L'analisi di Ugo Tramballi. John Kerry era stato chiaro la settimana scorsa ai dialoghi mediterranei organizzati dalla Farnesina e dall'Istituto di Studi per la Politica Internazionale. Aleppo è persa. Col metodo ceceno dei bombardamenti a tappeto che non risparmiano i civili, russi, regime siriano e Iran ieri hanno definitivamente ripreso la città. Putin aveva previsto di scatenare l'offensiva finale in autunno mentre gli Stati Uniti erano distratti dalle elezioni presidenziali. Lo scrupolo in realtà era superfluo. L'amministrazione Obama aveva già fatto un passo indietro dal caos siriano, non ritenendolo una priorità americana. Dopo l'inaspettata vittoria di Donald Trump, non solo il disinteresse americano è aumentato ancora di più, a questo si è aggiunta la palese volontà del nuovo presidente di privilegiare i rapporti con Vladimir Putin. Comunque vadano le cose, se Aleppo, ma non necessariamente tutta la Siria, è persa, il vero banco di prova dei nuovi equilibri USA-Russia non sarà il Medio Oriente, ma l'Europa, a partire dall'Ucraina, dove la guerra non è finita, è solo stata precariamente sospesa. Siamo alla vicenda Mediaset, nuovo rialzo del titolo in borsa. Oggi facciamo un punto con Deborah Rosciani. Deborah, ciao. Sì, più 4,91% per il titolo del Biscione. Anche oggi nettamente il miglior titolo di Piazza Affari in una seduta leggermente negativa per Milano, meno 0,18%. Arrivano delle prese di profitto dopo i forti rialzi di ieri. Allora, Vivendi sta continuando a rastrellare naturalmente sul mercato azioni del gruppo del Biscione e in tutta risposta naturalmente anche il gruppo italiano sta acquistando pacchetti appunto azionari in una controffensiva rispetto a questa tentata scalata ostile che sta mettendo a segno il gruppo francese delle telecomunicazioni. Al momento, secondo le comunicazioni di ieri sera, Vivendi avrebbe il 12,32% delle azioni, Fininvest gli sta rispondendo appunto ed è salita al 38,26%, in realtà il pacchetto in mano al Biscione sarebbe leggermente più alto, 39,8% del capitale con diritto di voto. Tra l'altro le azioni non sono solo quelle che si manifestano sul mercato ma sono anche di natura legale, quelle che vedono contrapposte le due società, perché la famiglia Berlusconi avrebbe presentato nelle ultime ore anche un esposto contro i francesi francesi per contestare la manipolazione di mercato. Il tema adesso è capire fino a quanto si porteranno avanti le azioni dei due gruppi, fino ad arrivare a quella soglia che naturalmente farebbe poi scattare o da una parte o dall'altra l'obbligo di offerta pubblica d'acquisto sulla società. Si dovrebbe arrivare, per esempio, per Fininvest al 41,3% dei diritti di voto, cioè dovrebbe rimanere intorno a questa soglia, appunto, per evitare l'OPA. Di fatto non abbiamo ancora visto tutto, Simone, il titolo continua a correre e sicuramente stiamo parlando un po' del fatto del momento dal punto di vista finanziario. Direi che per ora è tutto. E ti ringrazio, Deborah Rosciani, che così ha risposto parlando anche dell'offensiva legale all'ascoltatore che ci chiedeva che cosa vuol dire che Berlusconi corre ai ripari contro la scalata a Mediaset, in quel senso e con un controrastrellamento di azioni da parte di Fininvest. Veniamo alla vicenda di Vincenzo De Luca, che è indagato per istigazione al voto di scambio. Qualcuno voleva liquidarle come battute, ma per la Procura di Napoli alcune frasi pronunciate dal governatore della Campania Vincenzo De Luca durante la riunione del 15 novembre scorso con 300 sindaci, ormai famosa per aver suggerito di offrire fritture di pesce in cambio del sì al referendum, vanno approfondite. Il fascicolo aperto riporta come ipotesi accusatoria l'istigazione al voto di scambio. Si tratta di uno sviluppo dell'attività avviata il 24 novembre, anche a seguito dell'esposto presentato dal Movimento 5 Stelle, nata per fatti non costituenti notizie di reato. Tra le frasi che spingono a verificare se si è configurata una violazione delle normative a tutela del voto, la richiesta di mandare fax con numeri realistici dei voti per il sì, ad andare porta a porta e a segnalare voti raccolti per il sì, l'invito a non fare fessi, l'appello a rimanere uniti di fronte ad un governo con il quale c'è un'interlocuzione vantaggiosa. Ieri il primo testimone, il giornalista Paolo Russo, portavoce del governatore, presente alla riunione. Altri saranno convocati nei prossimi giorni. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ed è di pochi istanti fa la prima reazione, appunto, di Vincenzo De Luca. Dice: quando hai la coscienza tranquilla si va avanti, oppure qui moriamo di avvisi di garanzia mentre i cittadini non hanno neanche i servizi essenziali. Queste dunque le parole di De Luca. Veniamo alla politica vera e propria, le questioni che riguardano il governo che oggi affronta la prova della fiducia al Senato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si presenta al Senato, sta parlando in questo momento, ha iniziato la replica per ottenere la fiducia dopo l'ok della Camera, ringrazia Matteo Renzi e ribadisce che la maggioranza è la stessa per l'indisponibilità delle altre forze politiche. Un'aula sicuramente più difficile per il neo premier, soprattutto per vedere cosa farà ala di Denis Verdini. Dopo il no all'entrata del governo da parte di Gentiloni, i numeri a Palazzo Madama sono più in bilico e il governo dovrebbe avere comunque 166-172, sì, questa è la forbice, a seconda di quello che farà qualche senatore di ala, deciso comunque a sostenere il governo malgrado invece il no di Denis Verdini. Il Presidente del Consiglio sta intervenendo quindi, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e la fiducia a partire dalle 15. Nel frattempo Movimento 5 Stelle e Lega ieri hanno disertato l'aula di Montecitorio. Beppe Grillo e Davide Casaleggio arriveranno a Roma stasera, previsto un incontro con i gruppi parlamentari, ma sulla durata del governo pesa anche il referendum sul Jobs Act. Se si vota prima del referendum il problema non si pone, dice il ministro del lavoro Giuliano Poletti, questo è lo scenario più probabile con un governo che fa la legge elettorale e poi lascia il campo. A te Simone. Grazie dunque Elisabetta Fiorito anche per questo aggiornamento. L'economia italiana è tornata a crescere ma lentamente e a corrente alternata, lo dice il centro studi di Confindustria. Ci racconta tutto in diretta Teresa Trillò, che sta seguendo la presentazione del rapporto. Teresa, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sì, è così. L'economia italiana, dice il centro studi di Confindustria, torna a marciare seppur lentamente e rivede il centro studi di economisti di Via dell'Astronomia, rivedono al rialzo le stime di crescita del prodotto interno lordo, previsto in aumento dello 0,9% nel 2016 contro lo 0,7% stimato a settembre. Una crescita che continuerà anche nel 2017 con un incremento del PIL dello 0,8% rispetto allo 0,5% stimato in precedenza. All'orizzonte resta però un rischio legato al ribasso per l'incertezza politica del dopo referendum. Un'incertezza, dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che aumenta il sistema di ansietà del paese e lo fa vivere in un sistema di perenne incertezza e non sposta l'attenzione anche sui nodi strutturali dello sviluppo. Ora, ad esempio, dice Boccia, si profila all'orizzonte un possibile referendum sul Jobs Act promosso dalla CGIL che può bloccare le assunzioni in attesa del risultato. Per questo è importante fare uno sforzo comune e fare proposte. Boccia rilancia il patto per la fabbrica con i sindacati per recuperare crescita, produttività e arginare la povertà. Infatti, oltre all'incertezza politica, Confindustria si dice preoccupata per l'occupazione che è in ripresa ma non ancora tornata ai livelli pre-crisi, e anche per la povertà che è in aumento con 4,6 milioni di poveri assoluti, in crescita del 157% rispetto al 2007. Da Roma per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie dunque a Teresa Trillo. Dal fronte europeo ci sono aperture sulla flessibilità per la questione dei migranti, sentiamo. Spese per i migranti fuori dal patto di stabilità, così dichiara il presidente della Commissione Juncker, e questa volta la presa di posizione è ufficiale. Il numero uno dell'esecutivo comunitario parla dinanzi alla plenaria di Strasburgo, alla vigilia del Consiglio UE di domani, in cui si parlerà soprattutto di migranti. Un messaggio ancor più significativo perché indirizzato al nuovo governo Gentiloni. Commissione dunque pronta a venire incontro alla richiesta più volte formulata dal governo Renzi di considerare eccezionali e quindi da non valutare ai fini del calcolo del saldo strutturale di bilancio le spese per l'emergenza migranti. L'Italia fa molto, non deve portare a haushalterische conseguenze negative in Italia. Non possiamo lasciare l'Italia da sola, afferma più volte perentorio Juncker. L'Italia fa molto per i migranti e questo non può e non deve avere conseguenze negative in termini di bilancio. Insomma, i migranti sono una spesa che, in quanto paese di prima accoglienza, l'Italia sostiene per conto dell'Europa e dunque non va computata. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. La cronaca ci porta alle indagini nel Modenese per l'aggressione a un chirurgo. Tentato omicidio e lesioni gravissime. Con questa accusa, all'alba di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Modena hanno suonato alla porta di casa di Daniele Albicini, di 59 anni, residente a Costrignano di Palagano, per notificargli l'arresto. L'uomo è ritenuto responsabile dell'aggressione con soda caustica ai danni di Stefano Tondi, primario di cardiologia all'ospedale di Baggiovara, e di suo figlio Michele. Aggressione avvenuta la sera del 10 novembre scorso davanti all'abitazione del medico a Vignola. Daniele Albicini è un dipendente del comparto sanitario, fa il tecnico a Sassuolo. Ad incastrarlo, tracce di DNA sul bastone che impugnava nell'altra mano e non sul fucile giocattolo con il quale ha sparato la soda caustica sul volto del cardiologo. Secondo il procuratore capo Lucia Musti, all'origine del gesto ci sarebbe un movente passionale. Albicini, divorziato con due figli, aveva avuto una relazione con l'attuale compagna del medico. La storia era finita alcuni mesi fa, ma la gelosia nei confronti della donna di cui era ancora innamorato ha scatenato la sua follia. La soda caustica ha quasi ridotto in cecità Stefano Tondi e se non fosse intervenuto il figlio Michele, richiamato dalle urla del padre mettendo in fuga l'aggressore, quest'ultimo avrebbe potuto anche uccidere il cardiologo. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. E adesso andiamo a Torino per parlare di un intervento chirurgico molto importante. Pensate a questo, pensate a una bambina di 6 anni in dialisi dalla nascita, perché da quando è nata non ha mai potuto né bere né urinare. Ebbene, all'ospedale Le Molinette di Torino hanno risolto il problema con un trapianto appunto innovativo. Leggiamo dai titoli di agenzia: un trapianto di un rene al posto della milza. Siamo in linea con il professor Renato Romagnoli, che fa parte dell'equipe che ha compiuto questo intervento. Professor Romagnoli, buongiorno. Forse è un po' grezza come definizione quella che è stata data. Sì, buongiorno. No, non è grezza, nel senso che effettivamente il rene è stato impiantato esattamente nella sede della milza, utilizzando entrambi i vasi, sia l'arteria sia la vena splenica, per poter connetterlo con il corpo della piccola. Il motivo di questa scelta è stato dettato dal fatto che la bimba era nata con una rara malformazione venosa dell'addome, tale per cui tutti i vasi del sistema della vena cava inferiore non erano formati. Questo è il motivo per cui i suoi reni non hanno mai funzionato fin dalla nascita, non ha mai urinato e non era tecnicamente possibile eseguire un trapianto con tecnica convenzionale con un collegamento ai vasi, diciamo, retroperitoneali. E quindi abbiamo dovuto, come dire, ideare, mettere a punto questa tecnica che per ora ci sta dando soddisfazione in quanto la funzione renale della bimba adesso, a 4 giorni dopo l'intervento, è assolutamente normale, con un valore di creatinina pari a 1. È la prima volta nel mondo che avviene un trapianto di questo genere, professore? Con questo tipo di tecnica, con un rene totalmente intraperitoneale, anastomizzato su entrambi i vasi della milza, è la prima volta in un bambino così piccolo, sicuramente. Era una tecnica che era stata descritta tanti anni fa per il trapianto adulto e poi abbandonata per la sua, come dire, per la sua difficoltà, e questa volta l'abbiamo, come dire, rispolverata e adattata per un bambino piccolo. E grazie dunque al professor Romagnoli per questo intervento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia che all'inizio, almeno nella prima parte della trasmissione, toccherà 3 regioni, perché se vivete nella pianura padana state sentendo uno smog discretamente opprimente. Vedremo di fare un quadro della situazione da Piemonte, Lombardia e Veneto. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della battaglia su Aleppo che non si interrompe e ci sono migliaia di civili intrappolati. Ha parlato pochi istanti fa, tra l'altro, il presidente del Consiglio Gentiloni, che dice è una tragedia inaccettabile. Abbiamo parlato del nuovo sprint in borsa di Mediaset, abbiamo parlato dell'indagine sul presidente Campano De Luca e abbiamo parlato di un importante trapianto avvenuto a Torino, come avete sentito pochi istanti fa. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e, come abbiamo detto, oggi parliamo parecchio di qualità dell'aria. Insomma, se vivete soprattutto nella pianura padana, come si diceva, avete sentito un clima discretamente opprimente, ma non solamente nella pianura padana, è un problema che sta investendo un po' tutto il centro nord. Alcune città corrono ai ripari. Torino, per esempio, domani blocca la circolazione dei diesel Euro 3. Vediamo di fare un punto della situazione dalle 3 regioni più interessate, iniziando dal Veneto. Siamo con Rodolfo Bassan dell'osservatorio Aria dell'ARPAV, l'ARPA del Veneto appunto. Buongiorno Bassan, benvenuto. Buongiorno. E come vanno le cose oggi? La situazione è in leggero miglioramento. Abbiamo avuto un picco i giorni fra il 10 e l'11 e adesso, anche grazie alle condizioni meteorologiche che sono mutate leggermente, i dati si sono leggermente abbassati. Si sono leggermente abbassati. Serve, secondo lei, un blocco del traffico da qualche parte? Abbiamo visto che Mestre è in una situazione particolarmente critica, no? Ma diciamo che interventi emergenziali risolutivi non esistono. Si può migliorare un po' la situazione, ma in realtà gli interventi che si possono fare sono solamente interventi che hanno un carattere duraturo. Il blocco del traffico può avere un significato, però potrebbe anche non essere determinante. La ringrazio, grazie Rodolfo Bassan dell'osservatorio Aria ARPAV, ossia del Veneto, e siamo in linea anche con Anna Gafodio, spero di aver messo l'accento giusto, responsabile della qualità del Dipartimento Qualità dell'Aria di ARPA Piemonte. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei. Accento giusto, sì, Gafodio. Accento sbagliato. Accento sbagliato, com'è? Gaffodio. Gaffodio, grazie. Perfetto, benissimo. Poco male. Come vanno le cose oggi? Ma guardi, le cose a Torino sono in una situazione abbastanza critica dai primi di dicembre, quindi le condizioni meteorologiche di grande stabilità fanno sì che nella nostra città siamo sopra il limite di legge ormai dall'inizio del mese, con delle flessioni giornaliere, quindi abbiamo dei picchi e alcune riduzioni, ma siamo sempre sopra i limiti. Purtroppo la situazione è abbastanza critica. È destinata a perdurare? Per quanto vediamo, nei prossimi giorni perdurerà ancora, perché le condizioni meteorologiche non cambiano, riguardano la città, riguardano un po' tutta la pianura, i capoluoghi di pianura, mentre sono esclusi quelli delle fasce pedemontane. Blocchi del traffico, abbassamento del delle traffico, temperature, serve sì. Tutta questa roba? I blocchi del traffico sono stati avviati dalla città di Torino con un'ordinanza emessa ieri, erano già attivi in altri capoluoghi, sicuramente determinano quantomeno un non peggioramento. E poi diciamo che l'elemento importante, innovativo di quest'anno nella nostra regione è il fatto che tutte le amministrazioni cercano di muoversi con lo stesso tipo di provvedimento, quindi anziché una così, condizione di ordinanze differenziate sugli orari, sui tempi nelle diverse città, su indicazione degli uffici regionali i provvedimenti dovrebbero essere gli stessi un po' su tutta la regione. Questo potrebbe effettivamente determinare una maggiore efficacia delle azioni. Grazie mille, grazie. Prego. Mille. Dal Piemonte andiamo alla Lombardia. Guido Lanzani, responsabile qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come vanno le cose? Ma anche da noi ormai superiamo da inizio dicembre in modo diffuso i valori limite. Anche ieri a Milano avevamo concentrazioni tra i 70 e gli 80 microgrammi al metro cubo. Cioè, mi ricorda il limite di legge qual è, Lanzani? Il limite di legge è pari a 50 microgrammi 50, al metro cubo. Ok. E anche qua, situazione destinata a perdurare, immagino, perché più o meno la situazione climatica è la stessa, no? Sì, in realtà la realtà del bacino padano è del tutto confrontabile, la situazione non è particolarmente critica a Milano piuttosto che a Torino, come abbiamo sentito dai colleghi, è proprio una situazione diffusa e anche le previsioni meteorologiche confermano quindi anche per noi che almeno per i prossimi giorni la situazione sì. È prevista essere stabile. Stessa domanda fatta ai suoi colleghi, Lanzani, blocchi del traffico, abbassamento delle temperature, sono tutti provvedimenti che ci stanno, ma mi sembra di aver capito sono provvedimenti tampone evidentemente. Ma io credo che effettivamente la cosa importante è prendere provvedimenti strutturali, come di fatto si prendono con i piani di risanamento introdotti nelle diverse regioni. Questi provvedimenti aiutano un'ulteriore riduzione in questi periodi critici. Credo che poi l'importanza sia effettivamente l'aiuto che questi provvedimenti danno comunque a un miglioramento strutturale. Da noi, ad esempio, quest'anno una novità importante è stata l'introduzione del divieto dell'uso della combustione della legna per chi ha già altri sistemi di riscaldamento, se non negli apparecchi migliori in questo periodo, quindi se non negli apparecchi che hanno 3 o 4 stelle. Questo migliora le emissioni in questi giorni, sì. Ma porta anche a un cambiamento in prospettiva del parco apparecchi installato, perché se le persone sanno sì. Che durante l'episodio acuto si possono usare solo gli apparecchi migliori, presumibilmente tenderanno a preferire questi. Quelli rispetto, rispetto al momento dell'acquisto. Certo, al momento dell'acquisto. La ringrazio, grazie a Guido Lanzani, responsabile di qualità dell'aria ARPA Lombardia. Vi voglio anche ricordare, tra l'altro, che Cuore e Denari se ne occupa 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e fa proprio un monitoraggio, diciamo così, non proprio città per città, perché gli spazi radiofonici sono quello che sono, però per dare un'idea, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, e quindi nella puntata di oggi, se vi scaricate il podcast, la trovate sulla appunto situazione dell'aria nelle varie città. Ci spostiamo in Sicilia, siamo con Giuseppe Antoci, presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno. Minacciato, tra l'altro, l'abbiamo ospitato, l'ospitammo anche per questo motivo. Le ultime minacce sono arrivate in novembre, se non sbaglio, con delle scritte contro di lei. Ebbene, oggi nel Parco dei Nebrodi c'è stata un'importante operazione contro la criminalità, un'operazione che ha portato ad indagare 50 persone. Ci sono appunto persone di vario genere. Che cosa facevano? Furti di animali, maltrattamento, uccisione, macellazione, l'azione clandestina e vendita al pubblico di alimenti pericolosi per la salute. È un colpo importante questo messo a segno dalle forze dell'ordine, Antoci? Sì, assolutamente. La Polizia di Stato e con la Procura di Patti hanno dato un forte colpo su questo tema, che è un tema importante, che la magistratura vedrà se è legato all'attentato mafioso che ho subito a maggio. In questo momento non ci sono indicazioni in merito, però è certamente un contesto che riguarda un argomento sul quale si intreccia anche il problema della macellazione clandestina e l'abigeato, perché la lotta che noi abbiamo fatto revocando i terreni alle famiglie mafiose dai quali terreni loro percepivano i fondi europei servono anche poi come controllo del territorio per mettere poi gli animali rubati, per poi sostituirli con la macellazione clandestina e metterli sul mercato come carni malate. Purtroppo questo è un tema sul quale abbiamo visto anche stamattina si innesta un atteggiamento poco consono di alcuni colletti bianchi dello Stato che dovrebbero controllare, mi riferisco al servizio veterinario, che invece dovrebbero certificavano, stando alle indagini, certificavano quella carne come sana, cioè per farla immettere sul mercato, no? Insomma, adesso proprio in queste ore diciamo che si sta un po' approfondendo quali sono i capi di imputazione, ma assolutamente si parla di misure cautelari, di 33 misure cautelari e 17 avvisi di garanzia. All'interno ci sono veterinari, ci sono imprenditori, ci sono nomi importanti anche del territorio della criminalità. Insomma, è un contesto sul quale hanno fatto luce, e soprattutto la cosa importante, in un territorio dove le eccellenze enogastronomiche sono riconosciute in tutti i posti, evidentemente questa parte, che è una piccola parte, è stata colpita in maniera forte, spero definitiva, ed è stato dato anche un segnale. Questo è un territorio che non è patrimonio loro. Non è patrimonio della criminalità, delle associazioni mafiose, ma è patrimonio dello Stato. Il colpo oggi inferto alla Polizia di Stato e della Procura di Patti ha dimostrato in fondo questo, e di questo siamo tutti felici. La ringrazio, grazie a Giuseppe Antoci, presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi, per essere tornato da noi, e noi naturalmente le auguriamo un buon, ottimo lavoro e le siamo tutti vicini, ovviamente. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, come sempre a quest'ora, e poi ci sposteremo in Liguria, perché sta emergendo questa idea che, dobbiamo dire la verità, abbiamo trovato piuttosto curiosa. La regione Liguria si preparerebbe a pagare una serie di pendolari per fare cosa? Per mettersi in ogni stazione e contare i passeggeri che entrano ed escono dai treni. Questo per monitorare attentamente che cosa succede. Ne parleremo con l'assessore competente per vedere di capirne qualcosa di più. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: è fallita l'evacuazione di Aleppo, la città di nuovo sotto i bombardamenti, sono migliaia i civili intrappolati. Secondo Mosca la situazione si risolverà in 2 o 3 giorni. Il presidente campano De Luca è indagato per istigazione al voto di scambio. Al centro dell'inchiesta l'audio dell'incontro con i sindaci campani per il sì al referendum. Operazione di polizia nel parco dei Nebrodi, 50 indagati, come avete sentito, sono allevatori, macellai e veterinari, mettevano in commercio carne adulterata. Un trapianto a Torino, il primo al mondo di un rene al posto della milza, una bambina di 6 anni che non ha mai potuto bere, potrà iniziare a farlo la borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, come ci fa notare giustamente anche un ascoltatore, errore mio, il blocco dei diesel Euro 3 a Torino è scattato in realtà già da oggi, è già dalla giornata di oggi. Non vorrei aver fatto partire qualcuno da casa col suo diesel Euro 3 sperando che potesse entrare a Torino, ha preso una multa e sinceramente insomma spero che non si rivalga su di me. Continuiamo a parlare di trasporti però e ci occupiamo in questo caso di treni e di pendolari. Siamo in linea con Giovanni Berrino, buongiorno, è l'assessore ai trasporti della regione Liguria. Berrino, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, ascoltatori. Allora, per parlare di questo, in una regione che, secondo l'ultimo rapporto Pendolaria, quello di Legambiente, diffuso nelle ore scorse, il taglio dei servizi è stato negli ultimi 6 anni del 13,8% a fronte di un aumento delle tariffe del 41%, voi avete avuto un'idea che, devo dire la verità, ci sembra piuttosto curiosa. Volete pagare dei pendolari per fargli contare le persone che entrano ed escono dai treni nelle singole stazioni, ho capito bene? Sì, a parte che l'ultimo aumento in Liguria c'è stato nel 2013, quindi è risalente ormai a 4 anni fa, e negli ultimi 3 anni la produzione è aumentata e aumenterà ancora nel 2017, quindi siamo in un trend di crescita e non di taglio di servizi. Però sfruttando anche la nuova legge sui trasporti abbiamo deciso di dare al gruppo di consumatori, quindi alle associazioni di consumatori, un controllo su come i pendolari vivono il treno e quindi su come viene utilizzato il trasporto ferroviario regionale in Liguria. Ma ho capito bene che il compito di queste persone saranno stanziati 10.000 euro, me lo conferma, sì? Fino a 10.000 euro. Perché chi è sui treni e viaggia sui treni, chi più di loro può essere preciso nel verificare nelle varie stazioni, che in Liguria sono tantissime, quante persone salgono e scendono, questo anche per riuscire a calibrare il più possibile le fermate e i servizi dei treni. Ma cosa fanno? Cioè, stanno là, si mettono là fuori e contano? Sono persone che sono sui treni o che pure salgono nelle singole stazioni, quindi contano chi sale e scende sul treno. Adesso poi di questo l'abbiamo messo nel nuovo contratto di servizi stipulato con Trenitalia, poi con loro faremo un capitolo, un protocollo di intesa in cui stabiliremo con precisione le loro funzioni. Le stabilirete con precisione. Ho visto che ci sono anche delle associazioni di consumatori o simili con le quali vi state raccordando. Consumatori, poi questo accordo lo facciamo con l'associazione dei consumatori. Ed è un accordo che poi può essere esteso anche ai comitati dei pendolari. Io ho un dubbio su questo tema, assessore, che è il seguente. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive: tutte le stazioni hanno un sistema di videosorveglianza, non basta rivedere le registrazioni? A questo le aggiungo una domanda: la settimana scorsa Amazon ha presentato negli Stati Uniti un suo supermercato nel quale il sistema di controllo è talmente perfetto e talmente perfezionato che puoi andare a fare la spesa senza che esista una cassa, ma non c'è un modo di mettere dei sensori nelle stazioni che contino loro automaticamente? Cioè, perché è un po' artigianale così, mi consenta. Noi siamo trasporto pubblico regionale e possiamo, cioè, le stazioni sono di RSI, di 100 stazioni, con Trenitalia sui treni e tutto il resto. Noi abbiamo promosso come Regione Liguria un sistema di bigliettazione elettronica che sarà in vigore, spero, tra 2 anni e che permetterà di contare esattamente le persone che usano il treno dalla stazione di origine alla stazione di arrivo. Nel frattempo collaboriamo con i pendolari per calibrare al meglio i flussi di persone che nelle singole stazioni usano i treni regionali. Questo è quello che facciamo. Se poi Trenitalia o RSI dal suo canto può e vuole mettere in atto altre soluzioni tecnologiche per avere dati che in oggi non ci può dare, ben vengano, per carità, in assoluto, anche perché capisce bene che con 10.000 euro in un anno non è che possiamo raccontare tutti quelli che salgono. Quanto gli date a ciascuno? Da quel che ho capito, quindi è una soluzione transitoria. Quindi, da quel che ho capito, è una soluzione transitoria, perché lei dice tra 2 anni ci sarà questo sistema di sorveglianza. Ma quanto gli date a ciascuno? Giusto per capire, per curiosità. No, ma è un protocollo di intesa in cui loro collaborano con noi per capire meglio i flussi di viaggiatori nelle stazioni liguri che usano i treni regionali. Questo è. E poi se non è un sistema non lavorano per noi, è una collaborazione, non può essere tra l'altro prevista da legge, quindi non è che... Certo. Come regione no, assessore, qua qualcuno scrive con un po' di perplessità, ma tra 2 anni, ci mettono 2 anni, ma là ci vogliono gare d'appalto, cioè è inutile che ve lo stiamo a spiegare, ogni volta che si commissiona un lavoro pubblico in Italia è una cosa... Per la bigliettazione elettronica? Sì, esattamente. La bigliettazione elettronica è da progettare e poi da mettere in atto, quindi abbiamo istanziato una cifra iniziale di 8 milioni di euro per progettarla e realizzarla, perché dovrà essere utilizzata non solo sui treni regionali ma anche sui bus e quindi sul trasporto pubblico, su GO. Sì, due anni sperabili poi, perché poi ci sono i ricorsi al TAR. Assolutamente. Sappiamo come funzionano queste cose. Anche per programmare meglio, perché potremmo sapere a quel punto quanti e quali viaggi fanno le persone che usano il treno e l'autobus nello stesso giorno, su quali itinerari, quindi a quel punto ci potrà essere molta più programmazione sul trasporto pubblico locale, tenendo conto che siamo in un periodo in cui sicuramente le risorse non cresceranno, ma mi auguro che non scendano, ma sicuramente non c'è previsione che cresceranno. Allora la ringrazio, grazie a Giovanni Berrino, che è l'assessore dei trasporti della regione Liguria. Qualcuno chiede se li doteranno di pallottoliere, non credo che li doteranno di pallottoliere, però la battuta non è male. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.